Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, è puntata pre-pasquale, come ovvio. Lunedì vi saranno programmazioni festive, martedì saremo invece di nuovo in diretta regolarmente. Puntata come sempre il venerdì, non voglio rovinare la Pasqua a chi è già in movimento o si sta per mettere in movimento, però non possiamo rinunciare alla classifica, la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Per quello che sento un strano suono in cuffia, comunque adesso vediamo che cosa è successo, ma per quello che riguarda i temi avremo una poco invidiabile classifica della settimana e poi parleremo del reddito, la decisione più importante di quelle che abbiamo raccontato in questi giorni da parte del governo, oltre alla parte che riguarda il DEF, investimenti infrastrutturali e quant'altro. Dicevo, una delle decisioni più importanti riguarda il memorandum d'intesa siglato questa mattina a Palazzo Chigi sul reddito di inclusione per i nuclei familiari sotto la soglia di povertà. Non c'entra nulla con il reddito di cittadinanza proposto dai 5 Stelle, si chiama reddito di inclusione. Nel giorno in cui l'Istat ci fa sapere, tra virgolette, che in Italia 4 milioni e mezzo di persone vivono in povertà assoluta. Se uno vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, ma di pieno ce n'è veramente poco, il dato è stabile rispetto al 2014. La povertà relativa, quindi quella non quella assoluta, poi la chiariremo, riguarda 8 milioni e 400 mila persone. Ora, uno può anche dire che in alcune parti del nostro mezzogiorno della nostra penisola vi sia una preponderanza di economia in nero e sommersa, ma non è, fatti salvi alcuni casi, quella fare la differenza enorme. Qui c'è stato un problema di impoverimento che stiamo raccontando dal 2008 in poi. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Avremo, qualcuno me lo chiede, la startup, l'impresa lanciata in questi anni di crisi da chi si è rimboccato le maniche. Qualcuno già mi scrive: un po' di merito i 5 Stelle lo avranno sul tema portato, il tema sicuramente, non c'è nessun problema a riconoscere che il tema del reddito di cittadinanza e il governo, poi ripeto, sono due cose molto diverse. Il reddito di cittadinanza costerebbe, secondo le simulazioni, riguarderebbe circa 10 milioni di famiglie con un costo tra i 17 e i 19 miliardi. Il problema del reddito di cittadinanza, oltre all'effetto delle volte di anestetizzare la persona che deve cercare un lavoro, ma ci possono essere dei correttivi, il vero problema è dove reperisci 18 miliardi di euro l'anno. Certo, c'è chi dice: fai saltare quello che è sostanzialmente l'accordo, il fiscal compact europeo, che da solo ne vale 18 e ogni anno noi dobbiamo trovare delle clausole per disinnescare il fiscal compact e quindi andare a evitare l'aumento di IVA e quant'altro. Il reddito di inclusione invece riguarda, ha una portata definitivamente decisamente più bassa, 2 miliardi e mezzo di euro. È però un principio, diciamo, che si muove, mettiamo così, sulla stessa matrice, cioè cercare di dare un sostegno economico a chi è, nel caso del reddito di inclusione, sotto la soglia di povertà, nel caso del reddito di cittadinanza invece in chi non raggiunge una certa cifra, cioè i 780 euro. Comunque ne parleremo nella seconda parte del programma. Dicevo, 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. E partiamo come sempre dalla borsa, meno 1,16% Milano, meno 0,60% Parigi, meno 0,40% Francoforte, meno 0,30% Londra, meno 0,70% il Dow Jones in questo momento. Che cos'è che fa calare Milano più della media delle altre borse europee? Beh, oggi, di nuovo oggi, Fiat Chrysler, meno 3,73%, giornata simile a quella di ieri, dicevo, e poi Banco BPM meno 2,80%. Per cento, Unicredit meno 2,40%, Azimut meno 1,80%, Eni meno 1,60%, come Intesa San Paolo l'1,5% lo perde, Buzzi Unicem l'1,20%, Tenaris, ma anche Ferrari ed Enel. Chiaramente stiamo dando tutte le borse della, visto che me l'avete chiesto, della chiusura di ieri. Tutte le borse sono chiuse oggi. Parigi ieri ha chiuso con meno 0,60, Francoforte con meno 0,40, Dow Jones con meno 0,70. L'euro su dollaro invece, quello lo dico a chi me lo sta chiedendo, è perché i mercati valutari non chiudono mai, è ancora aperto e tratta 1,0626 nel rapporto di cambio. Così come sì, vedo che c'è chi mi chiede conferma, ci sono anche altri mercati, non tanto asiatici ma di carattere valutario, che sono aperti, l'euro sulla sterlina, l'euro sul franco e quant'altro. Allora, invece l'Italia, che non è borsa, ma oggi sviluppa novità, perché dopo una trattativa lunghissima che è presente oggi in molti giornali, intanto si è saputo che è il 19 il referendum con cui sostanzialmente i dipendenti, i lavoratori dell'Italia dovranno dare il loro sì o il loro no, evidentemente, a quello che è il provvedimento, l'accordo, diciamo, ma sottoposto al referendum raggiunto ieri. Il 26 vi sarà la verifica al Ministero dello Sviluppo Economico. Per quello che riguarda l'accordo, il ministro Calenda oggi era ospite di Oscar Giannino e Alessandro Milan. L'accordo, ripeto che non è un accordo definitivo, perché deve essere sottoposto a referendum, prevederebbe la riduzione degli esuberi per il personale di terra a tempo indeterminato da 1300 a 980, quindi 500 in meno, e la riduzione del taglio degli stipendi all'8%. Calenda però ha avvertito che se l'operazione dovesse fallire tutti i costi finirebbero allo Stato, e quindi stiamo parlando di più di 1 miliardo. Su questo è stato molto chiaro, ripeto, al microfono di Alessandro Milan e Oscar Giannino. Positivamente, perché da un lato in questo modo l'Italia avrà, se i sindacati approveranno con il referendum, una struttura di costo del lavoro e soprattutto una struttura di contratto che sarà capace di renderla più competitiva, e dall'altro lato abbiamo cercato di evitare il più possibile esternalizzazioni che in alcuni casi sono sbagliate, e abbiamo chiesto di mettere più risorse sulla parte del medio e lungo raggio in particolare, che ovviamente deve essere il business di Alitalia. Nel mio intervento in Parlamento ho detto che l'obiettivo prioritario del governo è mettere meno soldi possibili, e come al solito questo deriva dalle alternative che sono sul campo. Oggi ci sono soci disponibili privati a mettere quasi 2 miliardi di euro tra nuove linee, conversioni, eccetera. Se Alitalia finisse in amministrazione straordinaria o anche finisse in amministrazione straordinaria e poi in liquidazione, lo Stato dovrebbe mettere svariati miliardi di euro, cosa che io penso sia un'alternativa da evitare in tutti i modi. Quindi il primo criterio di giudizio è qual è la soluzione che fa mettere meno soldi possibili allo Stato, e poi ovviamente anche preservare i 15.000-16.000 con l'indotto posti di lavoro che ci sono, che sono molto importanti. Sempre sull'Italia è intervenuto anche il Premier Gentiloni e ha detto, insomma, auspico che la maggioranza dei lavoratori voti sì all'accordo, è una preintesa positiva grazie all'impegno di tutti, del governo, dell'azienda, delle parti sociali. Siamo anche all'indomani di una nottata che ci ha portato a raggiungere un verbale di preintesa tra l'azienda, l'Italia, le forze sindacali. Io voglio ringraziare per questo impegno, per questo sforzo, che certamente non è stato facile arrivare a un punto di incontro. Mi auguro che questo punto di incontro sia confermato dai lavoratori, e voglio rivendicare l'impegno del governo, che in questi mesi è stato, vi assicuro, incessante. L'Italia è un'azienda privata, ma il governo non ha risparmiato gli sforzi per cercare di ottenere un piano industriale che potesse essere condiviso e che mi auguro venga confermato anche nel referendum. Allora, di Uber vi hanno già detto i nostri GR24, il Tribunale ha accolto la sospensiva, Uber tornerà a usare le app fino a che non vi sarà il giudizio di merito. Il prossimo 5 maggio saremo in udienza d'appello accanto a Uber per tutelare i diritti e la libertà di scelta dei cittadini, lo annuncia il portavoce di Altro Consumo. Sappiamo che l'associazione dei consumatori sono spesso state dalla parte di Uber e quindi praticamente l'ordinanza che avrebbe interrotto tutti i servizi app di Uber a partire dal 16 aprile viene sospesa. Vedo molti messaggi al 349-238-6666 per quello che riguarda il reddito di inclusione, 2 milioni di lavoratori coinvolti, 2 milioni di persone coinvolte. Gentiloni oggi ha detto un primo passo, ma è la prima volta. Poletti è soddisfatto. Vabbè, ne parleremo dopo le 18. Allora, di Fiat, al di là del calo di ieri, oggi ha parlato il numero uno Marchionne, perché si è tenuta ad Amsterdam l'assemblea dei soci e Marchionne ha detto: il nostro obiettivo è quello di concentrarci sul piano che abbiamo, il consolidamento, che vuol dire sostanzialmente altre acquisizioni o fusioni. Il consolidamento se poi non dovesse succedere faremo alleanze bilaterali su progetti specifici, cioè se non vi dovesse essere una fusione o incorporazione societaria. Per quello che riguarda Magneti Marelli ha negato qualunque ipotesi di cessione di Magneti Marelli a Samsung, ha detto Marchionne, quel discorso non c'è. E poi ha detto che ha ammesso che la trimestrale di Fiat è stata debole, un trimestre più debole rispetto all'anno scorso, però restano tutti gli obiettivi prefissati. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, trasmessi anche su RDS, oggi a firma del vice direttore Alessandro Praterotti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. Mentre la Fiat sostanzialmente riconferma gli obiettivi di crescita per il resto dell'anno, un passo indietro, se non altro strategico, è stato fatto oggi dal Lingotto. Marchionne ha sostanzialmente abbandonato quello che gli americani definivano un non realistico piano di fusione con un'altra grande casa mondiale. Si era parlato prima della General Motors, poi si è passati all'ipotesi Volkswagen, lo stesso Marchionne aveva detto: mi aspetto una telefonata dalla Germania. In realtà Marchionne è tornato sul realismo. Il realismo si tratta di che cosa? Investire in tecnologia, cercare alleanze che possano spingere avanti la Fiat e riagganciare le altre grandi case, soprattutto sull'auto sia che si guida da sola, ma anche su quel progetto di auto elettrica in cui l'Italia è un po' rimasta indietro rispetto agli altri. La situazione in questo momento della casa automobilistica sotto il profilo finanziario si chiama debito, e questo sembra oggi l'obiettivo principale sia della famiglia di controllo, gli Agnelli, che del suo manager Sergio Marchionne. Tagliare l'indebitamento prima di lasciare l'azienda nel 2019 è diventato l'obiettivo principale, e il segnale che è arrivato in questi giorni dalla borsa sembra confermare che anche i mercati ritengono sia giusto. Ieri la Fiat ha perso circa il 4%, oggi i mercati sono chiusi, lunedì vedremo come i mercati finanziari hanno accolto questa nuova inversione U di Sergio Marchionne. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. La classifica della settimana. Nel giorno in cui si parla di reddito di inclusione rispetto al reddito di cittadinanza, in cui l'Istat ci dice che i poveri sì, sono rimasti fermi rispetto al 2014, il dato del 2015, ma ricordo un po' la barzelletta di quello che cade dal grattacielo e a metà gli chiedono come va e lui dice: fin qua tutto bene, nel senso che sono rimasti invariati, ma sono un numero altissimo, sia povertà assoluta che povertà relativa, perché stiamo parlando di 4 milioni e mezzo di persone in povertà assoluta e 8 milioni e 300 mila persone in povertà relativa. La settimana ha avuto già un pre-classifica, lo dissi martedì, insomma, parlare di appalti truccati alla SL Napoli 1 con prodotti pagati il triplo del loro valore nel giorno in cui, era sempre martedì, veniva arrestato a Genova, a Recco, all'uscita dal ristorante Manuelina di Recco, dove aveva appena incassato una tangente da 7.500 euro da un avvocato e da due commercialisti, il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate Walter Pardini, beccato proprio col come si dice, no, ma col sorcio in bocca, no? E sempre lo stesso giorno ci eravamo anche occupati dell'aeroporto di Lamezia Terme, definito dai PM, la società che lo gestisce, un suc di affari e favori in cui venivano addirittura utilizzati soldi pubblici di Garanzia Giovani per assumere gli amici degli amici senza segnalati dai politici locali. E vabbè, in una giornata settimana del genere, insomma, un po' di classifica l'abbiamo già fatta, ma partiamo bassi, partiamo al quinto posto, e vi dico già che il quinto e il quarto posto sono oggi in mano, così, al nord, se si può dire in questo modo. Partiamo infatti da Pavia, dove sono stati sospesi dal servizio per un anno 7 ispettori del lavoro. Ora, in base a quello che gli viene contestato, io non so se basti la sospensione per un anno, perché voglio dire, già l'assenteismo è una piaga e va colpito duramente. Se l'assenteismo lo fa chi dovrebbe verificare l'assenteismo degli altri, sarà un aggravante a casa mia. Insomma, il 7 ispettore del lavoro di Pavia, invece che andare a verificare il rispetto delle norme su igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, verificare le norme giuslavoriste, come le fabbriche e gli uffici si comportavano con i loro lavoratori, sapete che facevano? Facevano regolarmente, si assentavano dalle loro scrivanie per sbrigare le commissioni di casa, chiedevano rimborsi per l'auto personale utilizzata per attività di servizio mai avvenuta e andavano tranquillamente a fare la spesa. Li hanno beccati, infatti, con il carrello tra gli scaffali del supermercato, in alcuni casi, altri accompagnare i figli a scuola durante l'ora di lavoro. Ora tutto, cioè, uno può chiedere un permesso, ci mancherebbe, lei nel contratto, ma conto è chiedere il permesso, conto è chiedere il rimborso per l'auto mentre vai a accompagnare il figlio a scuola, vai a fare la spesa. Quindi dico, tra l'altro il loro comportamento aveva stato sospetti a catena, più volte le assenze non giustificate, le uscite extra orario erano state scoperte dai superiori. Comunque le accuse sono mosse dai carabinieri di Pavia, su disposizione della procura, e sono 7 i tecnici dell'ispettorato territoriale del lavoro di Pavia sospesi. Bassi, partiamo. Però saliamo leggermente di livello e qui se restiamo però al nord. Allora, mi abbassi, scusami, un attimo la base, perché questa la volevo raccontare in un altro modo. Allora, qui c'è un sindaco che si chiama, ex sindaco, eccolo qua, Adriano Alessandrini, ex sindaco di Segrate, molti sanno, è in provincia di Milano, beh, eletto con Forza Italia. Che cosa succede? Lui si difende, dice, ho prodotto un numero impressionante di testimonianze che non ho speso soldi in maniera impropria, il risultato è che mi rinviano processo e questa è una perdita di tempo, le spese che mi sono state addebitate sono completamente erronee, ci hanno detto che devono essere rendicontate diversamente con impegni di spesa e non effettuate con la carta di credito, ma nella sostanza non cambia nulla. Non solo, durante il periodo in cui sono stato in carica ho fatto risparmiare all'amministrazione di Segrate oltre 240.000 euro con il taglio del numero degli assessori e del gettone di presenza. Questa è la difesa di Alessandrini, che dice c'è un errore, diciamo, contabile, procedurale, io ho pagato con la mia carta di credito, ma dovevo rendicontare le cose in un altro modo. Ora, io non so se sia solo un errore di rendicontazione, perché le accuse verso Alessandrini sono un po' diversi. Ecco perché ho chiesto di sospendere la base e ne vorrei un'altra. C'era una mitica canzone, adesso capite perché, di Alan Sorrenti, che la mia generazione conosce bene. Sì, se la prendiamo così ci arriviamo più. Thank you. arriverà, eh. L'intro più lunga della storia della musica. Perché è impazzito? No, non sono impazzito. Il sindaco Adriano Alessandrini, ex sindaco di Segrate, è accusato di aver utilizzato i soldi chiaramente non per motivi istituzionali. Numerosi e questa è la procura della Corte dei Conti della Lombardia, dice numerosi e indebiti pagamenti per spese non riconducibili ad adempimenti istituzionali, a spese di rappresentanza o missioni del sindaco, ma fatte con la carta di credito in uso al sindaco. Allora, tra queste spese ci sono, sto scherzando, c'è anche l'albergo e i pranzi per i relatori del convegno Figli delle Stelle, meeting internazionale di esobiologia. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo. Alessandrini, insomma, difficile. Allora, a parte che se qualcuno mi scrivesse cos'è la esobiologia, in realtà praticamente il vitto e l'alloggio per i relatori di questo meeting internazionale di esobiologia si è svolto in più edizioni, poi abbiamo scoperto che era dedicato a UFO e alieni. Hotel, ristoranti, poi ci sono anche fatture di alcuni pranzi con rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri per analisi e sicurezza sul territorio comunale, o pranzi con esponenti dell'aeronautica militare per pianificare il concerto di Natale. Oh ragazzi, non esiste il telefono, devi per forza pranzare quando devi pianificare il concerto di Natale. Infatti Alessandrini si difende e dice: no, io ho pagato la cena alla Fanfara dei Carabinieri oppure l'aeronautica, ho pagato i biglietti aerei agli assessori che devono recarsi a Roma per impegni istituzionali. Però se Alessandrini ci chiarisse che cavolo era sto convegno pluriennale dei Figli delle Stelle, meeting internazionale di esobiologia. Ecco, mi scrivono sulla esobiologia, scusate l'ignoranza, è la ricerca di forme di vita extraterrestre. È il ramo della biologia che indaga sulle possibilità di vita extraterrestre. Il termine fu introdotto da J. Landberg nel 1957. Sì. A Segrate, il convegno internazionale di esobiologia. Vabbè, tra l'altro il danno erariale di decine di migliaia di euro, il processo si aprirà a luglio. Immagino che insomma chieda aiuto anche agli UFO a sto punto. Oh, forse la battuta è un po' diversa, ovviamente. Lui ha. Hanno mangiato a UFO. Ah, ecco perché la esobiologia. Adesso mi è venuta bene, bene. Pranzi e cene privi di qualsiasi funzione istituzionale, alcuni offerti ai soggetti privati. Si è arrivato a caricare sulla carta di credito comunale anche la tessera annuale di iscrizione all'ordine dei giornalisti. Voglio dire, un doppio. Sto zitto perché sto rischiando anch'io l'espulsione dall'ordine, ma insomma. 100 euro, ma porca miseria, ma almeno la quota dell'iscrizione all'ordine, ammesso che serva o non serva l'ordine dei giornalisti, paga tra quei tuoi soldi. Alessandrini, figli delle stelle, non lo so. Comunque andiamo sul metro e la pubblicità, poi ahimè scherzeremo meno col terzo, secondo e primo posto. 349-238-6666 per WhatsApp, per SMS, anche con SMS WhatsApp stellari galattici. Focus Economia. No, abbiamo tenuto Figli delle Stelle per il convegno. Mi state scrivendo da tutta Italia sulla esobiologia. Adesso ho scoperto anch'io che lo studio degli UFO, di chi vive al di fuori, esobiologia, al di fuori del bios della Terra. Mi chiedo invece, diciamo, quanto e che cosa vi sia sotto il cielo, sotto le stelle dei quattro deputati renziani. Anzi, tre deputati del PD renziani, che se, dopo quello che sto per leggere, qualcuno dirà che non sono figli delle stelle, ma di qualcos'altro. Attenzione bene. Allora, voi ricordate la battaglia dell'ex presidente del Consiglio che sta creando anche molti grattacapi in Rai sulla soglia dei 240.000 euro di stipendio massimo, che noi personalmente abbiamo criticato sui manager delle partecipate dello Stato non quotate, le quotate non, perché riteniamo che ci sia del populismo duro e puro in quella norma, nel senso che tu vai fuori mercato e io mi prendo un manager che non vengono i migliori perché ha 240, perché il mercato ha un'altra cifra, e può valere anche personalmente per il mondo dello spettacolo. Io questo puritanesimo senza mercato non lo capisco. Se uno vale, viene pagato e prende. Detto questo, uno può pensare come vuole. Quando devi gestire le Ferrovie dello Stato o un'azienda pubblica, io vorrei che si scegliesse il manager migliore, non il manager che viene al prezzo più basso rispetto a quella che è la media in quel settore, che non stabilisco mica io né può stabilire la legge, si chiamerebbe ancora libero mercato. Comunque, però Renzi ne ha fatto una battaglia di questo. Allora io mi chiedo, i tre deputati renziani, nello specifico uno è Francesco Bonifazi, tesoriere del PD, l'altro è Ernesto Carbone, hanno fatto un ricorso sul tetto dei 240.000 euro per i dipendenti, perché questo riguarda anche i dipendenti di Camera e Senato. Quando tu fai un ricorso, le controversie dei dipendenti non si discutono come per gli altri umani, anche alieni a questo punto, davanti al giudice del lavoro, ma davanti a una commissione interna composta da una terna di deputati. E il che rende tutto quanto più singolare, perché i tre deputati erano appunto Carbone e Bonifazi, che devono valutare il ricorso. Qual è il ricorso ai dipendenti? Il tetto di 240.000 euro. Sapete quanto prende infatti di media un documentarista tecnico ragioniere della Camera? Può arrivare a 238.000 euro. Un consigliere parlamentare con un'anzianità elevata può arrivare a 360.000 euro, quindi il 50% più del tetto di qui sopra, che è stato stabilito perché la retribuzione del Presidente della Repubblica o del primo Presidente della Corte di Cassazione, se non ricordo male. Poi il taglio finisce anche per andare sulle indennità di funzione, somme aggiuntive alla paga. Per capirci, insomma, il segretario generale percepisce per questa voce 662 euro netti al mese, prima percepiva 2200 euro netti solo di indennità di funzione. Ma cavolo, hai già lo stipendio, basta. No. Dunque, la sforbiciata non è andata giù a quasi nessuno. Hanno fatto ricorso in 575 e appunto vanno alla commissione dove ci sono anche Bonifazi e Carbone. E sulle indennità rischiano, l'hanno anche spuntata, tant'è che il conto alla Camera è salito di altri 2 milioni e ha fatto infuriare giustamente il deputato Grillino, segretario dell'ufficio di presidenza, si chiama Riccardo Fraccaro. Tra l'altro questo è, non è un precedente, perché è successo anche al Senato, dove è stato già accolto il ricorso che chiedeva di affermare il principio che il riferimento al tetto di 240.000 euro lordi avrebbe avuto valore limitato nel tempo, e cioè finita sta legislatura saltava. Ma io dico, ma un senso della decenza c'è? No, allora, ai manager che devono stare sul mercato, e a questo punto ci metto dentro anche gli attori, i conduttori che devono stare sul mercato, alla RAI impone il tetto, a un impiegato, un massimo rispetto, un dipendente della Camera del Senato che non ha, non so quale cavolo di mercato abbia con 240.000 euro, non gli va giù. Allora voglio dire, ha ragione i conduttori o ha ragione i manager, dire scusi, ma se il privato mi dà il triplo, ma perché devo andare al pubblico? Così facciamo selezione inversa nel pubblico, ma i dipendenti di Camera e Senato non ci stanno, non ci vogliono stare. Vabbè. Allora, dunque, dai, tra l'altro la cosa interessante, adesso cambio la base perché qui non è un problema di figli di, ma è un problema che non te reggo proprio più, dai dati di bilancio si deduce che nel 2017 lo stipendio medio di un dipendente del Senato era pari a 148.000 euro, è identico a quello di 10 anni fa. Io quindi vorrei sapere tutti questi tagli che cavolo hanno portato. La Camera, 138.000 euro medio di stipendio il dipendente, addirittura più alta di un punto percentuale rispetto a 10 anni prima. Vabbè, dai. Andiamo al secondo posto. Allora, al secondo posto andiamo a Roma, qui torniamo a Roma e poi chiudiamo in bellezza. A Roma c'è una buona notizia è una cattiva notizia. Di nuovo al centro della classifica sono Ama e Attac, ormai tipo Freddie Mae e Fanny, come si chiamavano? Fanny Mae e Freddie Mac. Le due grandissime gruppi, i due grandissimi gruppi assicurativi americani. Perché? Allora, se la buona notizia stavolta arriva dall'ATAC, dove i sindacati di categoria hanno raggiunto con l'azienda un accordo per utilizzare i dipendenti amministrativi, quadri compresi, nella verifica dei biglietti a bordo dei mezzi pubblici. Praticamente 1.400 dei quasi 12.000 dipendenti della municipalizzata potranno fare anche i controllori. Ecco, questa è un'ottima notizia, perché è come se venissero assunti 240 controllori a tempo pieno. Quindi 240 controllori a tempo pieno che non vengono effettivamente assunti, vengono utilizzati i dipendenti già esistenti. Il verbale dell'accordo varrà fino a giugno del 2018, siglato da tutti. Impiegati e quadri diventeranno controllori nel quadro del contrasto all'evasione tarifaria, che è altissima all'ATAC, più alta in media di tutto il resto del paese. Sono previsti anche premi, senza però incrementare gli straordinari. Chi non dovesse avere la nomina sarà adibito ad altre attività. E poi fra 3 mesi si farà una rendicontazione. Ottimo, perché insomma 240 controllori a tempo pieno in più vogliono dire qualche incasso in più anche per l'ATAC di dipendenti che già hai. La brutta notizia invece arriva dall'AMA, a sorella, cioè i rifiuti, che gestisce i rifiuti di Roma. Allora, poi ho visto che c'è forse anche si cercava di utilizzare Cerrone, se voglio riprendere la notizia sull'utilizzare il re della discariche romane, però questa è un'altra notizia. Metà dei camion a Roma per lo svuotamento dei cassonetti sono fermi in deposito per guasto o manutenzione. Metà. Uno su due. Poi un terzo dei furgoncini per il porta a porta fuori servizio, dei furgoncini quelli più piccoli che devono raccogliere, diciamo, l'immondizia minore, diciamo, i cestini della spazzatura e quant'altro. Per cui hai il 50% dei camion e il 30% dei furgoncini. Tra l'altro gli impianti di trattamento sono ormai sovraccarichi, anche perché funziona a scartamento ridotto il termovalorizzatore di Malagrotta, è colpito da un'interdittiva antimafia e quindi commissariato la prefettura. E poi il tema della flotta dei veicoli dell'AMA, perché ormai vecchia, priva di manutenzione, malmessa, riesce a far scendere, diciamo... I compattatori sono 350 su 700, su 700 che ne ha in strada ne scendono 350, il 65% su 1900 riescono a scendere poco più di 1200 autoveicoli per il ritiro a domicilio, quindi praticamente siamo, ripeto, appunto al 50% da una parte e al 45% dall'altra. Lo denuncio la CGIL, un'emergenza organizzativa. Secondo il sindacato a soffrire di più sono i camion a caricamento laterale, cioè quelli deputati alla raccolta stradale. Hanno un'età media di 8 anni, ma in un quinto dei casi hanno più di 12 anni. Poi mancano i pezzi di ricambio che non vengono forniti presso i magazzini dell'AMA. Manca la manutenzione e mancano i pagamenti puntuali, visto che l'azienda li effettua a singhiozzo. Appunto, un camion su due fuori uso, uno su tre con le spazzatrici a caricamento posteriore. Faccio notare che questo, diciamo, stato di salute dell'AMA, salute a modo di dire, non è dovuto al fatto che l'AMA, diciamo, abbia risparmiato, perché la cosa incredibile è che l'anno scorso ha avuto debiti per 600 milioni, di cui 200 milioni verso i fornitori, oltre 35 milioni verso il pool di banche che la sostiene, 250 milioni di costi per le esportazioni di rifiuti. Però poi ogni volta che si parla di un termovalorizzatore serio, come c'è a Brescia, come ci sono in altri posti, c'è la rivolta a Roma, non solo. Poi, not in my backyard, non nel mio giardino. Intanto l'AMA paga 250 milioni di debiti per aver esportato altrove i rifiuti. Bravi. O stupidi bresciani o diciamo o miopi, e qua mi fermo, i romani, perché insomma se altre città ce l'hanno e funziona e produce energia, anche in Germania, anche in altri posti. Andiamo sul traffico, che poi c'è il primo posto della classifica. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Focus Economia. Andiamo al primo posto. Sì, le due società americane erano Freddie Mac e Fannie Mae, quelle che nel momento peggiore dopo Lehman Brothers rischiarono, diciamo, di dare lo scossone terribile. Ma facciamo la battuta su AMA e ATAC. Allora, dicevamo invece prima del primo posto, qualcuno mi dice: ecco, sei diventato grillino. No, ho fatto notare che alcune proposte sono andate ai grillini e che si era infuriato un deputato grillino. Altri mi dicono: adesso darei la colpa alla Raggi dell'AMA. Ho dato la colpa alla Raggi dell'AMA. I debiti dell'AMA e dell'ATAC sono debiti pregressi. Dopodiché aspettiamo una vera rivoluzione, che con l'ex assessore Muraro abbiamo messo per iscritto più volte alcuni errori a nostro avviso dell'ex assessore Muraro, al di là dell'inchiesta. Per esempio, far fuori il direttore generale subito Rettighieri, si chiamava, dell'ATAC, che bene si era mosso nel risparmio, nel contrasto alla corruzione e quant'altro, e poi i rapporti che lei ha avuto con il cosiddetto re delle discariche romane, punto. No? Allora, andiamo al primo posto, vediamo chi è il vincitore. And the winner is... Devo tornare sulla ARS, che per chi non lo sapesse è l'Assemblea Regionale Siciliana. Allora, noi abbiamo raccontato di tutto in questi anni sui costi dell'Assemblea Regionale Siciliana, il parlamentino siciliano, e ve la faccio molto breve perché mi fa così incavolare questa cosa che non vorrei poi trascendere. Abbiamo raccontato anche recentemente del fatto che l'AS paghi ancora vitalizi a tutti gli ex deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, ma anche agli eredi di 9 deputati che erano in carica nel 1947, no? E tra l'altro con una cifra praticamente ogni anno gli assegni di reversibilità ogni mese costano 600.000 euro, 7 milioni di euro l'anno solo la reversibilità per gente che è stata, giusto per dargli esempi, che è stata nel Parlamento siciliano fino al 1955, uno si era candidato al partito monarchico, la signora, la vedova, è discendente in linea diretta di Natale Cacciola, ma neanche, manco vede, sarà la figlia, la nipote, prenda 2.000 euro al mese. Perché lo dico? Un'altra vedova a 2.500 euro di un deputato dal 47 al 55, un altro è stato 3 anni appena, la moglie... la moglie vedova riceve 2.000 euro al mese. Tutto questo solo questo scherzetto costa 7 milioni, solo questo. E complessivamente i 180 ex onorevoli ancora in vita nell'ARS, titolari di vitalizi diretti, valgono circa 10 milioni di euro l'anno. Quindi 10 milioni i vitalizi diretti, 7 milioni di reversibilità, fa a casa mia 17 milioni. Perché lo dico? Perché nonostante quello che è avvenuto in questi mesi, per lo scandalo dei fondi ai disabili totali della regione Sicilia, Crocetta si è speso, sono intervenuti attori, cantanti, Giovannotti, Pif, non me ne frega nulla, ma meno male se servono loro a sensibilizzare. C'è quell'assessore, come si chiama, Micciche, ecco, che ha promesso mari e monti. Allora, sapete che è successo? Devo dire che stavolta Crocetta è furibondo. L'Assemblea Regionale Siciliana, cioè quella che spende per i suoi ex, ma anche ex, diciamo, c'era ancora la TV in bianco e nero, e la lira, che spende 17 milioni l'anno, ha tagliato di 20 milioni di euro il suo stanziamento nei confronti dei disabili. Già la Regione Sicilia avrebbe dovuto spendere 36 milioni di euro, perché stiamo parlando di disabilità totali in cui hai bisogno di assistenza 24 ore al giorno, ok? Non la vedova, la discendente in linea diretta del deputato del 47 e del 55, non i vitalizi che andrebbero eliminati e basta di ex deputati, visto il modo in cui hanno gestito la Regione Sicilia in questi 10 anni, meglio ti fare una causa risarcitoria altro che il vitalizio. Però sono riusciti a tagliare di 20 milioni una dotazione che era già bassa di 36 milioni. Faccio notare che la regione Emilia Romagna, una regione civile, ne spende 120 per i disabili, la Sicilia 36, e non riesce a aprire i musei, però quanto a vitalizi siamo al top, come direbbe Cruciani. Allora, Crocetta è furibondo perché nel passaggio, mentre il governatore appunto annunciava stanziamenti, Sono scomparsi 20 milioni di questi 36 che erano a carico della regione, ne restano solo 16 più i trasferimenti dello Stato, pari a 68 milioni, totale 84 milioni, ripeto, di fondi suoi della regione Emilia Romagna ne mette 120 per l'esempio e il parametro. Allora Crocetta è andato su tutte le furie, ha detto che stanno cercando di sabotare gli sforzi che stiamo facendo, i 20 milioni scomparsi sono uno scippo, li vogliono togliere per fare altro. Comunque sto per firmare, ha detto Crocetta, un emendamento alla finanziaria che stanzia altri 100 milioni per i portatori di handicap gravi e gravissimi. Tra l'altro il testo prevede che insomma ci sia una contribuzione dei fondi regionali più fondi dello Stato, okay? Non vi sto neanche a spiegare il giochetto con cui si sono mossi, ma quello che è certo che sono scomparsi su 36 milioni 20 milioni nei vari passaggi assembleari, questo per quello che riguarda l'assemblea regionale siciliana, che è il parlamentino siciliano. Levate l'autonomia alle regioni, mi dispiace per l'Alto Adige, mi dispiace per i Friuli, meno per la Val d'Aosta visti i numeri che leggiamo. Daremo il riconoscimento della lingua, di quant'altro, basta con questa autonomia, non se ne può più. GR24 e poi andiamo al caso virtuoso. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino, trentodoc.com. Focus Economia. I wanna be free. Diciotto e 9 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Molti messaggi al 349-238-6666. Vabbè, insomma, sull'autonomia ognuno la può pensare come vuole. Insomma, faccio notare che di virtuoso c'è poco in alcune autonomie. Comunque, andiamo invece alla startup della settimana, che dovrebbe avere l'effetto, diciamo, di annullare o ridurre la depressione che ci viene con la classifica. Stefano Cabella, amministratore delegato di Air Selfie, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Quanti anni ha, che cos'è Air Selfie, chi l'ha fondata, con chi l'ha fondata e che cosa fa soprattutto? Ma io ho 49 anni, seguo Air Selfie come CEO da inizio di quest'anno. Air Selfie è una società che è stata fondata dai fratelli Marco e Edoardo Stropiana e per lanciare un prodotto che è subito diventato unico. Perché è una microcamera del peso di 61 grammi che ha la stessa forma del nostro smartphone, molto più piccola, integrata allo smartphone medesimo, che permette a chi utilizza lo smartphone per fare o farsi foto e video di aggiungere una nuova dimensione, una nuova prospettiva alle proprie immagini e quindi costruire un qualche cosa di differente rispetto a quello che può fare oggi. Ma non ho capito, voi parlate anche di un mini drone? Lo chiamano drone, si chiama drone banalmente perché è un oggetto che vola, come tutte le cose che volano, che sono comandate in remoto, si definiscono droni. Noi la chiamiamo microcamera volante proprio perché è un prodotto unico, cioè è un accessorio, diventa un accessorio dello smartphone, si integra con lo smartphone e in qualsiasi momento, in qualsiasi istante, in qualsiasi luogo, lei può decidere di farsi una fotografia appunto dall'alto, dall'aria, prendendo quindi, come dicevo prima, una prospettiva differente. Senta, qual è il costo, quanti pezzi state producendo, il fatturato e chi vi ha dato i soldi all'inizio? Ma guardi, il prodotto è stato presentato al pubblico internazionale attraverso una classica piattaforma di crowdfunding, Kickstarter, in America, a novembre dell'anno scorso. E quanto avete raccolto? Abbiamo raccolto circa $600,000, 550 mila euro. Il prodotto ha richiesto circa 2 anni di sviluppo ed è stato finanziato dai fondatori medesimi e da alcuni angels. Attualmente è in fase promozionale per raccontare del suo lancio che avverrà sui mercati globali a partire dal mese di maggio. sarà proposto in pochi giorni su tutte le piattaforme e-commerce a un prezzo medio, dipende dalle versioni, di 295 euro. Ma quali sono gli obiettivi di fatturato e in quante persone lavorano nella società e quindi anche al progetto? Gli obiettivi di fatturato sono molto molto ambiziosi, perché è un prodotto che nasce globale, nasce per tutti i mercati. In questo momento stiamo raccogliendo ordini da oltre 90 paesi in giro per il mondo. Ha obiettivi di fatturato, dicevo, ambiziosi. I primi 12 mesi dal suo lancio stimiamo di raggiungere vendite minime per 220.000 pezzi, che significano all'intorno 45 milioni di fatturato, per poi portare subito, se il pubblico e il consumatore ci darà ragione, su una scala totalmente diversa e molto più ampia l'anno seguente. Ecco, le persone. Sì, è un network molto esteso, distribuito a livello territoriale in diversi paesi, tutti integrati. Sono comunque oltre 70 persone che lavorano full time all'iniziativa, sviluppo del progetto e adesso per la preparazione del lancio globale. Ecco, una domanda, ma perché non vi siete rivolti alle banche? Oggettivamente la risposta può essere, se vogliamo, banale, però poi un pochino più complessa. Le banche all'inizio, per sostenere un progetto del genere, probabilmente, almeno in Italia, sicuramente i canali non sono facili da aprire. Quindi per un progetto su un prodotto inesistente, nuovo, che non ha nessun background, non ha nessun feedback come track record dei mercati, l'iniziativa dell'investitore illuminato è sicuramente premiante. Quindi crowdfunding e altri investitori privati, ma avete intenzione di aprirvi anche a capitale bancario? Sicuramente punto? Il sostegno alla crescita di un'impresa come Selfie, che ha dato assorbimento di cassa, diciamo così, per la sua funzionalità e per il suo funzionamento, richiederà l'apertura di canali di finanziamento standard, che andremo a strutturare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Allora, in bocca al lupo a lei, alle 20 persone che sono il team della società. Sono 70, siamo tanti, comunque il numero è sempre in continua evoluzione. Perché sì, io dicevo 20, il team, e 70 in tutto con i collaboratori. Tra l'altro, se ho ben visto, avete due centri operativi, uno a Milano e l'altro a Hong Kong? Sicuramente sì, più una base a Londra sulla parte sostanzialmente finance. Allora, in bocca al lupo a tutti voi, e nella speranza appunto che poi il vostro piano ambizioso vada a buon fine, e lo dico a lei, ai fondatori che erano giovanissimi, 29 anni, Edoardo Stroppiana, e a tutti i vostri collaboratori. Grazie quindi anche per l'illustrazione di come avete trovato i soldi. È vero che all'inizio è più facile che ci credano dei privati, lo dico chi sta scrivendo, e crowdfunding e le banche entrano un po' dopo. Grazie allora a Stefano Cabella, appunto amministratore delegato di Air Selfie. E adesso andiamo sul traffico e poi l'ultimo tema, siglato questa mattina a Palazzo Chigi, il memorandum d'intesa sul reddito di inclusione. Faremo un approfondimento su questo, il reddito vale per i nuclei familiari sotto la soglia di povertà, diverso dal reddito di cittadinanza, nel giorno in cui l'Istat ci fa sapere che la povertà assoluta nel 2015 coinvolgeva il 6% delle famiglie italiane, pari a 4.600.000 individui, e tra l'altro che c'è un altro 10% delle famiglie che è in povertà relativa, sono praticamente rispetto al 2014 sono peggiorate soprattutto le condizioni delle famiglie con quattro componenti. Il 10% delle famiglie, dicevo, è relativamente povero. Le persone in povertà relativa sono quindi 8.307.000, il 13% della popolazione. Andiamo intanto sul traffico, però. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. E non non c'è solo la percentuale di famiglie povere, povertà assoluta e povertà relativa nel rapporto dell'Istat. Ci fa sapere che la produttività del paese è ancora scesa nel 2016 meno 1,2%, ormai da 20 anni che la produttività di questo paese è ferma, ma è il PIL pro capite sotto la media dell'Unione Europea. Pensate che il PIL pro capite, cioè quello che ogni italiano produce come PIL, misurato nello standard di potere d'acquisto per un confronto depurato dei differenti livelli di prezzi nei vari paesi, insomma, è del 4,5%, appunto al netto di tutto, parametrizzando tutto, del 4,5% inferiore rispetto alla media europea, del 23% inferiore rispetto alla Germania, è più basso anche della Francia, superiamo invece la Spagna. Chiaro che poi questo va distribuito all'interno della geografia del paese, però questo è il dato aggregato. E siamo penultimi nell'Unione Europea per come tasso di occupazione, nel senso che tra i 20 e i 64 anni l'anno scorso era occupato in Italia il 61,6% della popolazione, tra l'altro 71,7% gli uomini, 51,6% le donne, e con il centro-nord che però arrivava al 70% di occupazione contro il sud al 47%. Solo la Grecia è peggio di noi, la Svezia è il paese che ha il valore più elevato, 80% di occupazione. E a questo proposito, cioè, si inserisce in questo tema il memorandum d'intesa sul reddito di inclusione. Che cosa prevede? Un sostegno economico universale per i nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà, circa 400.000, un assegno mensile tra i 350 e i 400 euro più una card da 40 euro per gli acquisti. L'importo dipenderà dal numero di componenti delle famiglie e dalla situazione familiare reddituale. Il reddito sarà assegnato solo con adesione a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. Sono stanziati quasi 4 miliardi per il 2017-2018, o meglio 1 miliardo e 200 milioni quest'anno e 1 miliardo e 700 milioni per il 2018, 2,4 miliardi il biennio 2017-2018. Professore Enrico Giovannini, ex ministro del welfare del governo Letta, ex presidente dell'Istat, insegna statistica economica all'Università della Vergata di Roma, buonasera. Buonasera. Sentiamo Gentiloni, presidente del Consiglio, oggi è un primo passo, ma è la prima volta che si introduce una forma di sostegno al reddito per la povertà assoluta. Naturalmente quello di oggi è un primo risultato, però penso che sia utile rivendicarlo a testa alta, perché in fondo è la prima volta che l'Italia si dota di uno strumento generale, universale, che vale su tutto il territorio nazionale, che è il reddito di inclusione. Il Parlamento ha approvato la legge delega, i decreti legislativi saranno approvati entro la fine del mese. Credo che tutti siamo consapevoli della necessità di passi ulteriori nei prossimi anni, passi ulteriori che devono allargare la platea dei destinatari di questa misura attraverso l'estensione del Fondo Nazionale per la Povertà e devono lavorare per aumentare anche i benefici. Allora, 2 miliardi e 400 milioni, questa è la cifra stanziata per i prossimi, cioè quest'anno e per il 2018. Giovannini, le piace il reddito di inclusione? Le piace di più il reddito di cittadinanza, che è quello proposto dal 5 Stelle, che si applicherebbe invece a tutte, a chi non raggiunge i 780 euro, con un calcolo che però si cambia se si applica ai nuclei familiari? Uno deve però frequentare corsi di formazione, non rifiutare più di 3 offerte di lavoro individuate dai centri per l'impiego. Riguarderebbe quello dei 5 Stelle, 10 milioni di persone, 3 milioni di famiglie, con un costo però tra i 17 e i 19 miliardi di euro. Allora, la convince il reddito di inclusione o rischia di restare velleitario per l'applicazione? Molti mi scrivono anche: ma come si fa a capire se sono un vero povero con il nero che c'è in Italia? Giovannini. Ma intanto anche quello dei 5 Stelle, la versione depositata in Parlamento, non è il reddito di cittadinanza classico che va a tutti, anche ai ricchi, per cui direi che attraverso il dibattito che c'è stato in questo anno e mezzo si è sostanzialmente arrivati a una convergenza, e cioè è un reddito condizionato per chi è sotto la soglia di povertà, a una serie di comportamenti di riattivazione, ricerca di lavoro, mandare i figli a scuola, mandare le visite mediche e così via. Cioè, fondamentalmente, il disegno che appunto a settembre del 2013 alcuni tra i migliori economisti, rispondendo alla mia richiesta, avevano fatto, cioè il sostegno per l'inclusione attiva. Purtroppo, quindi, ma almeno possiamo riconoscere che i 5, mi scrivono alcuni ascoltatori, che i 5 Stelle hanno avuto almeno il merito di porre il tema, no? Certamente, assolutamente. Ed è un tema che in realtà sta crescendo in tutto il mondo, perché ci si rende conto che in futuro vuoi l'automazione, cioè l'entrata di robot in attività che oggi non sono realizzate dagli umani, sia una crescita bassa, non solo in Italia, potrebbe impedire di far sì che il paradigma della crescita, cioè la crescita del PIL che in qualche modo porta verso l'alto tutti quanti, abbia effettiva efficacia. Quindi il tema è molto all'ordine del giorno, anche a livello internazionale. Ora, tornando all'Italia, la buona notizia è che l'accordo, comunque il memorandum firmato oggi, supera una serie di limiti non concettuali, ma il modo con cui il governo aveva attuato appunto il sostegno per l'inclusione attiva, e vanno esattamente nella direzione giusta. Le faccio due esempi. Così come attuato dal governo qualche mese fa, il sostegno per l'inclusione attiva era in cifra fissa, cioè veniva dato con un multiplo di 80 euro, i famosi 80 euro, a uno, due, tre membri del nucleo familiare, ma questo non consentiva a una famiglia di uscire dalla povertà, perché magari con tre figli o con due figli quello che era previsto non ti consentiva di uscire dalla povertà. Adesso invece sembra essere proprio correttamente un meccanismo che varia a seconda del numero di componenti e così via, che tende a portarti fuori dalla soglia di povertà. E questo è molto importante, ce lo dice l'esperienza tedesca e di altri paesi, perché questo supera l'insicurezza e l'incertezza legata al fatto che tanti possono finire nella trampola della povertà, perdendo il lavoro. Allora, Giovannini, però è meglio il reddito di inclusione o il reddito di cittadinanza? Perché insomma sono due cose leggermente diverse. Oltre no, che non sono. Così come i 5 Stelle hanno proposto in Parlamento, di fatto sono estremamente simili, al di là della platea. Beh, però la platea è diversa, ho capito io, almeno così ho capito. Esatto. Nel caso di cittadinanza sono 10 milioni di persone, 3 milioni di famiglie, qui siamo a una... Ma il meccanismo è sono 400.000 le famiglie. No, il meccanismo ho capito lo stesso, però si estende a 400.000 famiglie quello di inclusione, mentre si estenderebbe a 3 milioni di famiglie quello di cittadinanza. Certamente. Allora, quello che fa la differenza è fondamentalmente la quantità di risorse assegnate a questo strumento. Lei diceva che sono circa 2 miliardi tra il 2017 e il 2018. 2 miliardi e 400 milioni. Che sono assolutamente insufficienti visti i 4,6 milioni di poveri. Però vorrei anche ricordare che, visto che il sostegno per l'inclusione attiva adesso è REI, non è solo reddito, ma è tutto il resto, cioè servizi personalizzati per ritrovare lavoro e così via, è giusto, soprattutto in alcune aree del Mezzogiorno, e anche per rispondere alla domanda del suo ascoltatore, come si fa a evitare i furbetti del REI, bisogna investire per far sì che i comuni, le ASL, le scuole e così via lavorino insieme per realizzare un sistema efficiente che veramente aiuti le persone a uscire. Questa non è una cosa che si costruisce da un giorno all'altro, per cui da un lato capisco la prudenza, ma dall'altro dico anche che si sono persi due anni e anche i fondi che erano stati accantonati non sono stati usati per queste sperimentazioni. Sì, Giovannini, c'è poi il tema della copertura nel caso del reddito di cittadinanza. Va detto una cosa però, che i soldi sono tantissimi, 17-19 miliardi di euro all'anno. Abbiamo firmato un fiscal compact, il fiscal compact non ha una durata illimitata per fortuna, però ogni anno ci tocca trovare gli stessi soldi per quel fiscal compact maledetto firmato con la pistola alla testa, per lo spread, per quello che volete, recessivo, allucinante, insomma, frutto solo, diciamo, della rigidità teutonica e anche miopia teutonica, perché gli stessi soldi paro paro, cioè noi ogni anno che facciamo una manovra finanziaria, anche questa di cui si è appena delineata la struttura nel DEF, deve prevedere 18 miliardi di risparmi per non far scattare le clausole di salvaguardia, no? E cioè IVA, ecco, non avessimo il fiscal compact, almeno in questi 3 anni avremmo già avuto questi 18 miliardi. Io non so se poi sia quella l'unica strada, però se i paletti, Giovannini, per chiudere, sono molto stretti, eviti anche che qualcuno goda di questi soldi senza cercarsi un lavoro, no? In una battuta. Beh, il problema esiste perché sappiamo dalle storie dei falsi invalidi, sì, e tante, che c'è soprattutto in alcune aree del paese una tendenza a fare appunto i furbetti. Però adesso non è il momento di aprire la discussione sul fiscal compact. Vorrei ricordare che un investimento sulla povertà, così come dimostrano altri paesi, tende poi a ridursi quando la ripresa economica si consolida. Certo. Invece noi abbiamo deciso, e ripeto, sarebbe un'interessante discussione, di spendere circa 10 miliardi all'anno da qui all'eternità per i famosi 80 euro. Lo so, no, guardi, sono d'accordo con lei, devo chiudere il programma, sono d'accordo con lei, perché ho già capito dove sta arrivando, sono d'accordo con lei, Giovannini, così come non abbiamo ridotto invece in questo modo IRPEF e IRAP, ma ci porterebbe troppo in là. Grazie anche all'ex ministro e ex presidente dell'Istat, nonché docente, Enrico Giovannini. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in studio e in redazione. Un auguro di buona Pasqua a tutti voi, a partire da chi dovrà passare lavorando. Noi ci risentiamo in diretta martedì prossimo. Radio 24, libera la voglia di fare.